scellerato sei qui. E cosa ho fatto? Devi confessare ogni misfatto. Chi nascose il padron questa mattina? Confesserò, signore, io sono stato. Chi l'ha condotto nella stanza oscura? Io l'ho solo avvisato. Tu l'avvisasti dunque, o traditore, muori per questa mano. Per pietà, signor, beffate piano.